stessa di ieri sera. Bambini oggi in ferie, visitiamo l'Italia. La stessa di ieri sera. Bambini non studiate più un cazzo. All'alba dei nostri trent'anni copieremo ancora a settembre. Su di me.